Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Marzo 1981, Casablanca, Marocco. È una bella giornata delle ferie di primavera. La parola d'ordine è giocare, nelle strade del nostro quartiere popolare o al mare. Oggi però c'è anche lo sciopero generale. Mi chiamo Mustafa, vivo a Brescia, ho 45 anni, nato a Casablanca in Marocco, vivo in Italia da 18 anni, sposato con 3 figli. La scrittura della Munro si basa esclusivamente sul piacere di narrare. Il problema è che molti acquirenti di narrativa impegnata mostrano un'entusiastica preferenza per robaccia pseudoletteraria, lirica, trepidamente seria. Chi legge la Munro non assimila nozioni supplementari come lezioni civiche o dati storici. I suoi racconti parlano di persone. Persone, persone, persone. Se leggete narrativa che tratta di argomenti istruttivi come l'arte del Rinascimento o qualche importante capitolo della storia nazionale, avrete la certezza di sentirvi produttivi. Ma se la storia è ambientata nel mondo moderno, se le preoccupazioni dei personaggi vi sono familiari e se il libro vi appassiona talmente che non riuscite a chiuderlo all'ora di andare a letto, allora c'è il rischio che vi stiate semplicemente divertendo. Buongiorno a tutti, sono le 16:08 minuti, questa è Radio 24, il programma è Voi Siete Qui. Oggi abbiamo cominciato leggendovi un pezzo di una sorta di recensione, un articoletto che scrisse Jonathan Franzen un paio d'anni fa a proposito della oggi premio Nobel per la letteratura Alice Munro, in cui cercava di spiegare per quale motivo la sua bravura fosse inferiore alla sua fama, cioè lei fosse poco conosciuta e in realtà fosse una grandissima scrittrice. E da come avete capito, l'abbiamo letto non tanto perché oggi lei sia stata eletta premio Nobel, nominata, non eletta, premio Nobel per la pace, ma perché quello che fa lei è in qualche modo quello che fa la grande letteratura, quello che fanno le storie e quello che cerchiamo di fare attraverso i racconti delle persone che ce li mandano tutti i giorni qui alle 16. A Voi Siete Qui, una storia che racconti qualcosa di voi, un episodio della vostra vita che dica qualcosa di un pezzo di voi, di quando eravate bambini o di oggi o dell'altro ieri, o un racconto di vostra nonna o una storia che vi è capitata al lavoro, in amore o in amicizia, una storia di sport, qualunque essa sia, però un episodio che abbia un inizio, uno sviluppo e una fine. Voi siete qui, @radio24.it è l'indirizzo a cui mandarlo. È la stessa cosa che ha fatto Mustafa. Mustafa, di cui raccontiamo la storia oggi, è forse il primo, diciamo, immigrato dal Maghreb che mandiamo in onda di prima generazione, nel senso che è nato là ed è venuto qui. Avevamo fatto già storie di persone di seconda generazione che stanno qui e i cui genitori però erano stranieri ed erano venuti in Italia. Invece Mustafa è proprio il primo. È divertente sentire la sua voce perché più che un accento marocchino ha un accento bresciano, da quello che si sentiva nella sua presentazione. Vive in Italia da un po' di anni e ci ha mandato però una storia che ci ha spiegato non riesce a dimenticare. È una cosa che pensa quotidianamente, lo raccontava anche a Margherita quando lo ha sentito. Mustafa ha chiesto di non intervenire perché questa cosa gli sta troppo ancora vicino, gli sta troppo addosso e non riusciva a raccontarla. Allora noi usiamo solo le sue parole. Nella seconda parte sentiremo poi, proprio perché vogliamo capire un pochettino, partendo da questo racconto, capire qual è la situazione attuale del Maghreb. La situazione in realtà è che oggi l'avete sentito, è stato prima catturato poi rilasciato il primo ministro libico, ma vorremmo sapere qualcosa di più di qual è la situazione, sapete, primavera araba, l'Egitto, il Cairo, la Tunisia, e quindi sentiremo Alberto Negri che è l'inviato del Sole 24 Ore, questo però più tardi. Vorrei leggervi la lettera con cui Mustafa ha accompagnato il suo racconto, è questa qua. Buongiorno Matteo, sono anni che ascolto il vostro programma da Vendo Tutto, credo che quando inizia la parte dei racconti penso a un mio racconto che vorrei inviarvi e dopo tutti questi anni e con tanta esitazione ho avuto il coraggio di scriverlo. Sono marocchino, non ho mai studiato la lingua italiana, spero che non avrai tanta difficoltà a leggere, ovviamente no Mustafa, e non posso partecipare al programma perché è troppo doloroso per me. Cordiali saluti, Mustafa. Marzo 1981, Casablanca, Marocco. È una bella giornata delle ferie di primavera. La parola d'ordine è giocare, nelle strade del nostro quartiere popolare o al mare. Oggi però c'è anche lo sciopero generale. La giornata è iniziata normalmente. Giocavamo in strada, i miei fratelli più grandi non lavoravano e nemmeno mio padre. I negozi erano aperti. Piano piano però le cose sono cominciate a cambiare. Dei ragazzi arrivarono dai quartieri vicini e ci informarono che c'erano manifestazioni dappertutto. I negozi allora hanno iniziato a chiudere, le strade ad essere sempre più deserte. Però per me e i miei amici era un giorno di vacanza e non potevamo fare altro che giocare. Penso una volta che sento quelli racconti a Radio 24, penso sempre a quella storia, giorno al lavoro, penso sempre a quella storia. Non riesco a dimenticarla. Dopo mezzogiorno sono arrivate le forze dell'ordine, una squadra mai vista prima, vestita di blu petrolio, con caschi e fucile. Tutti i ragazzi e i bambini, per curiosità, sono usciti e si sono fermati a guardarli, soprattutto quelli davanti al nostro viale. Io nel frattempo ho visto mia zia venire a trovare mia mamma e dopo un po' di esitazione sono andato a salutarla. Appena arrivato al primo piano della nostra casa, ho sentito un rumore mai ascoltato prima. Pam, pam, pam. Quando parliamo abbiamo tutti dei ricordi differenti. Uno ha il suo punto di vista e quella storia è lì. Sono andato di fretta alla finestra. Ho visto tutti i ragazzi e i bambini che scappavano. Mio fratello maggiore che camminava piano. E l'altro invece che camminava a zigzag come se fosse ferito. Nella via un bambino era rimasto sdraiato ed era immobile. Dopo un urlo di mia mamma sono andato verso il piano terra. Scendendo le scale ho visto che, grazie a Dio, il mio fratello, che sembrava ferito, non aveva niente. Il fratello maggiore però invece lo era ferito, al tronco, ed era sdraiato a terra. Perdeva sangue e non smetteva di chiedere aiuto. Dopo un po' di esitazione mio papà ha preso la decisione di portarlo all'ospedale, anche se rischiava la prigione. Lo ha portato sulla sua moto e io li ho seguiti fino all'uscita dal nostro viale. Poi, quando stavo ritornando a casa, mi sono accorto che il corpo che avevo visto era di Abdrazak ed era ancora lì. Sua mamma e le sue sorelle urlavano e piangevano. Poi, poco dopo, ho incontrato il nostro vicino con sua figlia in braccio, la mia compagna di classe, Fatima. Aveva una ferita al collo. Quando mi ha visto ha mormorato il mio nome con gli occhi pieni di lacrime. Dopo un'ora è tornato a casa mio papà, da solo. Ci ha informato che non c'era possibilità che mio fratello tornasse a casa perché la polizia circondava l'ospedale. Per fortuna poi però riuscì a scappare. Fatima, invece, non è mai tornata. Keep on going, fine, you never lie. Mohamed Bouazizi ha 30 anni ed è uno studente, anzi è laureato in storia. Non ha lavoro, gli muore il padre all'improvviso e lui si trova a cercare di sostenere la famiglia che dipende di fatto da lui. Quando capisce che non ce la fa, fa un gesto estremo, si dà fuoco. Questa storia è la storia fondante di quella che è diventata poi la Primavera Araba. Tutto questo succedeva il 17 dicembre del 2010. Tar Ben Jelloun è uno scrittore marocchino, proprio come Mustafa, l'autore della storia di oggi, e ha raccontato in questo modo l'inizio di quella storia lì, che poi è diventata la Primavera Araba, che è la storia di Mohamed Bouazizi. Rientrando dal cimitero in cui aveva appena sepolto suo padre, Mohamed sentì che il fardello sulle sue spalle era diventato davvero pesante. Era curvo, invecchiato, camminava lentamente. Aveva appena compiuto 30 anni. Non aveva mai festeggiato il suo compleanno. Gli anni passavano e si assomigliavano tutti. La povertà, il bisogno, una rassegnazione vaga producevano nella sua vita una tristezza costante, diventata col tempo naturale. Come suo padre, non si lamentava mai, non credeva nel destino, né era religioso. La scomparsa del padre aveva sconvolto i suoi piani. Lui era il figlio maggiore e ormai, quindi, il responsabile della famiglia. Tre fratelli e due sorelle. Una madre diabetica ma ancora autonoma. L'ultima ricerca di lavoro cui si era dedicato non aveva dato per l'ennesima volta nessun frutto e si sentiva esasperato. Non era una questione di fortuna o di occasioni. Era piuttosto, diceva, un problema di ingiustizia legato alla sventura di essere nato povero. Non sarebbe andato più a sedersi davanti alla sede del Ministero dell'Economia per protestare contro la disoccupazione. Alcuni laureati disoccupati avevano trovato lavoro, ma lui no. La sua laurea in storia non interessava nessuno. Avrebbe potuto insegnare, ma il Ministero dell'Istruzione non faceva più concorsi. Tirò fuori una vecchia cartellina nascosta nell'armadio della biancheria. La svuotò di tutte le carte e i documenti che conteneva, compreso il diploma di laurea. Fece un mucchietto nel lavandino e bruciò tutto. Guardò le fiamme divorare le parole. Come per caso, non attaccarono il suo nome e la sua data di nascita. Con un pezzo di legno allora rianimò il fuoco fino a che tutto divenne cenere. Sua madre, allarmata dalla puzza, si precipitò. «Ma sei impazzito? Che senso ha bruciare il tuo diploma? Come potrai fare domanda per un posto da insegnante adesso? 3 anni andati in fumo!» Lui non rispose. Raccolse la cenere, la buttò nella spazzatura, pulì il lavandino, si lavò le mani e se ne andò. Era calmo, non aveva alcuna voglia di parlare o di giustificare il suo gesto. A che pro conservare un pezzo di carta che non gli serviva più? Il suo viso era cupo. La madre gli ricordò che era necessario che andasse a comprarle la medicina. Il farmacista gli avrebbe fatto credito. Si sedette su una panchina e fissò il suolo, seguendo il tragitto di una colonna di formiche. Chiese una sigaretta a un ragazzo che le vendeva al dettaglio, l'accese e la fumò lentamente. Le formiche avevano deposto il loro carico e sfilavano ora nella direzione inversa. Che vi ho letto è tratto da un racconto lungo, da un romanzo breve che si intitola Fuoco, che è scritto da Tar Ben Jelloun, che racconta proprio di un episodio che è stato, come vi dicevo prima, una sorta di scintilla che ha fatto partire tutte le rivolte che sono poi trasformate nella primavera araba. Mohamed Bouazizi si dà fuoco il 17 dicembre del 2010 e da lì questo evento viene preso a riferimento e a come punto di partenza appunto per tutti i giovani e meno giovani che decidono di rivoltare l'ordine precostituito. Era il 17 dicembre 2010, siamo al 10 ottobre del 2013 e ogni tanto le persone che come me non si occupano in maniera totale, radicale, delle situazioni legate agli esteri e soprattutto perché in Italia se ne parla ahimè anche un po' poco, abbiamo deciso di fare un punto della situazione con una persona che ne sa molto, molto di più ovviamente, che è Alberto Negri, che è l'inviato del Sole 24 Ore. Pronto Alberto, buongiorno. Buongiorno a tutti voi. Innanzitutto ti prendiamo in una giornata particolare perché proprio oggi è stato riconsegnato, vero, il primo ministro libico? È stato liberato e ha già tenuto una conferenza stampa in cui dice che vuole restare al suo posto. Vedremo cosa succederà perché la situazione in Libia è assai confusa. E tra l'altro Alberto ti prendiamo al volo perché prima fuori onda mi dicevi che stai per partire praticamente per la Libia. Sì, quando avrò il visto partirò per Tripoli perché la situazione naturalmente lo richiede. Ci racconti, come se fossimo dei bambini di 6 anni, che cosa è successo e a che punto siamo in quella parte del mondo? Ma ve lo racconto come è successo anche a me, perché quando è scoppiata la vicenda tunisina, io il 7 e l'8 di gennaio sono andato a Tunisi e sono partito subito la mattina dopo per andare in questo villaggio Sidi Bouzid, che è uno dei posti più sperduti, ignorati di questa Tunisia, perché sta a 3 ore e mezza di macchina nell'interno dalla capitale e lungo la strada c'è solo una città notevole che è Kasserine, dove tra l'altro c'erano delle antiche rovine romane, ma Sidi Bouzid è veramente un villaggio, era un villaggio di poche case che è diventato un po' più grande negli ultimi anni e ho incontrato anche la famiglia, io di Mohamed Bouazizi quando andai lì e c'erano ancora però in piedi il regime, quindi c'erano manifestazioni, morti per le strade. C'era caldissima la situazione, insomma. Era molto molto molto calda. Però quella cosa interessante è questa, che una rivolta in un paese che poi si è innescata e si è diffusa in tutto il mondo arabo è iniziata in un lontano villaggio sperduto dell'entroterra, da dove non si avrebbe avuto magari notizia di quello che è accaduto se non ci fosse stato internet e web. Chiaro. E da lì poi come si è allargata? Dove è passata? Cioè come siamo arrivati a Piazza Tahrir? Scusami se ti faccio fare questi salti. Ma però... guarda, siamo arrivati per una crisi di lungo periodo. Questi che noi abbiamo davanti non sono soltanto rivolte contro dei regimi o delle transizioni da un potere a un altro, sono in realtà la crisi di stati interi, sono delle nazioni in crisi quelle che abbiamo davanti. Eravamo nella fase terminale non solo dei regimi dei reis arabi, che fossero Gheddafi, fosse Gheddafi a Tripoli, Ben Ali a Tunisi, Mubarak al Cairo. E siamo proprio nella crisi, nella fase terminale della crisi di questi stati che non reggevano più come sistema, come nazioni. E infatti li vediamo anche sfaldarsi. Qui non è solo una difficoltà a trovare una soluzione più o meno democratica, un governo più o meno democratico. Bisogna ritrovare o ricostruire o costruire un'unità nazionale di questi paesi. Che cosa ci lega? Che cosa lega un paese come l'Italia a quella parte del mondo? Cioè, perché un motivo per cui tu ci segnali che dovremmo interessarci noi italiani a quello che sta succedendo in quella zona, oltre al fatto che sono così vicini a noi, ovviamente? Beh, sono il nostro, la nostra immagine riflessa in una sorta di specchio deformante. Cioè, noi ci rispecchiamo da quell'altra parte, la sponda sud. La Tunisia che oggi vediamo che butta profughi, eccetera, è un paese dove all'inizio del secolo scorso erano emigrati per lavorare 100.000 italiani nei campi o nelle miniere di Kasserine che citavo prima. Si trovano ancora alcuni anziani che parlano perfettamente l'italiano proprio perché lavoravano insieme a operai o contadini italiani, fanno parte della nostra storia antica, perché erano parte di un antico impero romano, ma anche recente, perché siamo stati anche colonialisti in Libia, non dimentichiamocelo. E insomma, sono una parte importante della nostra vicenda e poi ci legano e ci hanno legato e ci legano ancora molti interessi economici, dal petrolio al gas, ma anche al fatto che sono tra i mercati importanti per le esportazioni italiane. Alberto, e poi chiudo e ti saluto, visto che siamo partiti da un racconto che ci è arrivato dal Marocco. La situazione del Marocco è particolarmente diversa dal resto del Maghreb, dall'Egitto, dalla Tunisia, oppure è simile, oppure ha una sua indipendenza? Beh, il tratto più importante è il fatto che il Marocco è un regno, è una monarchia alawita di Re Mohammed, che è l'erede di una dinastia secolare, e la corona, il simbolo, è un simbolo importante per i marocchini, è un simbolo di unità nazionale molto forte, di identità nazionale eppure religiosa, e quindi in un certo senso la corona tiene unito ancora questo paese, che pure ha avuto nel corso del tempo anche molte scosse. Ricordiamoci gli attentati a Casablanca o a Marrakech. È un paese che ha dei problemi, ma che tende in qualche modo a trovare una sintesi nella monarchia. Alberto Negri, inviato del Sole 24 Ore, grazie mille Alberto e buon viaggio verso Tripoli. Grazie a voi. Ciao, buona giornata, grazie. Ciao. Per chiudere, scrive sempre Tar Benjelloun in un altro suo libro che si chiama La rivoluzione dei gelsomini. Questa primavera in pieno inverno non assomiglia a nulla nella storia recente del mondo. Potrebbe far pensare alla rivoluzione dei garofani in Portogallo del 74, ma è diversa. I popoli arabi hanno subito e sono stati rassegnati per molto tempo. Di tanto in tanto qualcuno si è ribellato e si è fatto uccidere. In generale però il Maghreb e il Makrek hanno questo in comune. L'individuo non è riconosciuto come tale. 349-238-6666, chiudiamo questa puntata. puntata, ringraziando ancora Alberto Negri e ringraziando quello che ormai definisco, amo definire il popolo delle 5 del mattino. Mi ha scritto Michele che mi dice: grazie per ricordarci, a quell'ora è un po' come ascoltare la radio dallo sgabuzzino. Guardi da uno spiraglio una cosa che è stata registrata e fai finta di credere che stia succedendo in quel momento. A un certo punto, però, è ancora buio mentre guido, qualcuno si ricorda di noi ed è un grande e irrefrenabile sorriso che mi sorge sul viso. È come se qualcuno ti dicesse: ehi tu, nello sgabuzzino, vieni fuori da lì, lo so che sei lì dentro. E allora voi nello sgabuzzino, venite fuori da lì, anche se sono le 16:30 ormai o le 5 del mattino, qualunque sia quell'ora. Venite fuori, scrivete una storia e inviatecela, ma soprattutto continuate a raccontare le storie e a scaricare i podcast. Li trovate al sito di Radio 24, alla nostra pagina, oppure in abbonamento gratuito su iTunes. Voi siete qui, è facile da trovare. Grazie a tutti, grazie a Paolino Corleoni, a Tiziano Bonini, a Margherita Ina. Grazie soprattutto a Mustafa, perché la storia di oggi era la sua e anche lui è un punto rosso su una mappa. Ciao a tutti, sono Luca Berrinzoni, abito a Lomazzo, provincia di Como. La storia di domani sarà la mia. È una storia di una piccola lezione di vita molto importante, però è una vergogna che mi sono portato dentro per un po' di anni. Questa è la mia storia e io sono qui.